Se è vero, per capire se l'amo, se la prendo in giro. Io vorrei una ragazza semplice. Io vorrei che lei sappia perdonare. Io vorrei vederla andare e non farla mai soffrire. Vederla ritrovare. Io vorrei sentire il suo amore. A costo di strapparle il cuore. E vorrei in silenzio camminare. Io vorrei svegliarla con decisione. Vorrei una ragazza semplice. Mi mi hanno fatto male. Ho capito che tutto c'è un limite. Anche se lasciarla andare, vorrei vederla andare per poterla ritrovare. Quando mi sento solo e non ho voglia di scherzare, quando io vorrei una ragazza semplice, io vorrei una ragazza semplice. Into the current of a dream, into the current of a dream. Time has come again, the dirty angel. With separate company into the current of a dream, into the current of a dream. Time has come again, the dirty angel, with separate company into the current of a dream, into the current of a